bello, bello, ti fa essere di casa. Vai, vai. Andiamo, andiamo, vai. Open stage. Open stage. Open stage. In progress. Dai, fate quella bella, quella... Improvisation. Dai, quella perdere l'amore. Infatti ho visto che anche il Parker rasato.